bella man come Buddha. So che sei a bocca asciutta e so che la tua religione è alla frutta, ma lo sai cos'è? Che hai perso credibilità. Nessuno crede più in te, tutti pensano chissà, ci sarà o non ci sarà, pensano mille teorie. E tu come risolve la gente le malattie? Fratello, vuoi comandare ma per noi non fai più niente. Io non credo alle cazzate che dice di te la gente. E poi sinceramente c'è gente più onnipotente. Vedi Berlusconi, lui sì che onnipresente. Due televisioni te le dovresti comprare, così magari insieme a Cristo vi riuscite a rilanciare. Hai fatto business religioso per anni, crociate, guerre e danni, danni che la vista c'ha panni. Mammo che non ti caga più nessuno, ti becchi sto fanculo. Venerdì io mangio carne al sangue. Io ho giusto un po' di domande, ne ho scelto poche tra tante, ma quindi spero che tu mi risponderai. Cos'è che farò da grande, se posso farlo il cantante o se resterò un dilettante, non si sa mai. Com'è che faccio la fame e faccio da bravo, mentre qualche sporco ladro guadagna il doppio di me? Com'è che le persone che girano a macchinone di solito sono quelle che non ci credono in te? Ti incazzi molto se a volte bestemmio troppo, e se a volte sei sclero cerco anche il resto della tua crew. Dimmi, potresti farmi un favore, dare un bacione di cuore a quei miei fratelli che ti sei preso lassù? Sai, non sono un tipo che prega, che molte storie le nega, ma faccio il meglio per stare fuori dai guai. Se esiste almeno ci conto che un giorno trovi un secondo e tra questi poveri Cristi mi aiuterai. Ricky, a quanto pare Dio riprende noi, con tutta la grana che c'ha, il figlio è nato in mezzo ai buoi. E poi alle domande che facciamo non risponde mai, non c'è una volta che ci ha tolto dai guai. Vai alla TV, muovi Cristi, parlano di evangelisti, cazzoni visti, rivisti, elencano i rischi che corriamo noi che non crediamo. Seduto nel divano penso che se crepiamo non ritorniamo più. E allora Dio dimmi tu come fare, che anche se non vi ascoltare ti si continua a gridare. Compare, quattro chiacchiere con me, me stesso, preti, pedofili, mancanza di sesso. Ed è questo che ti ha fatto smergare, butti l'occhio sui potenti ma mai su queste strade per Natale. Caro Dio dammi una svolta, fammi vedere fortuna per una volta. Amen. No, siamo anni che ti chiediamo una cazzo di dritta, mannata. No, non fare la tanata, man.